Perché anche questa sera voglio condividere con voi un salmo. Voi pensavate, no, questa sera ce la facciamo. No, anche questa sera vorrei condividere con voi due cose da un salmo bellissimo. Allora, è il salmo più piccolo di tutto il libro, e quindi già, no, un sospiro di sollievo da parte vostra, meno male, è piccolo. Sono solo due versetti, è il capitolo più piccolo della Bibbia. Questo secondo me sta a dire anche che a volte non servono molte parole per dire quello che è il cuore di Dio e quello che il Signore ci chiama a fare. Questo vale per la Bibbia, non per me, perché io mi ci vorrà almeno un paio d'ore, d'accordo? Ci siete? Era una battuta, potete anche ridere. Ci siete? Siete svegli? Ci siete? Benissimo. Leggiamo il Salmo. La mia preghiera è che questo Salmo possa aprire i nostri occhi, possa farci vedere, farci motivare ancora di più a fare quello che facciamo. Perché il Signore ci ha dato questo mandato. Sentite che cosa dice il Salmo 117. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria. Lo rileggo, lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché grande, forte è il suo amore per noi, perché grande, grande, grande è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura in eterno. La prima cosa che vorrei sottolineare da questo salmo è l'amore di Dio. Sai che l'amore di Dio è grande ed è grande per te. Il Signore ti ama e ti ama di un amore infinito. Lo sai? Lo sai? E non dovresti guardarmi così se lo sai. I tuoi occhi dovrebbero sprizzare di gioia, la tua faccia dovrebbe essere completamente trasformata, perché Dio, il Dio glorioso dell'universo, quello di cui abbiamo cantato, che ha creato i cieli e la terra, il potente, che è morto e risorto, che può ogni cosa, è ogni cosa, ti ama. Ti ama. Hai già riflettuto oggi sul fatto che Dio ti ama? Ti sei fermato? Hai chiuso i tuoi occhietti e hai realizzato il fatto che Dio, il glorioso, il potente, ti ama. Che grande è il suo amore nei tuoi confronti. Lo hai fatto. Lo hai fatto. Fratelli e sorelle, amici e amiche, non c'è niente che ci trasforma come l'amore di Dio nei nostri cuori. Non c'è niente che provoca qualcosa in noi di completamente diverso, fuori da questo mondo, si può dire, se non abbracciare il suo amore. Lo hai già fatto oggi? Chiudi un attimo i tuoi occhi e inizia a realizzare il fatto che il Dio potente dell'universo ti ama. È una cosa che va fuori. Fuori da ogni cosa comprensibile, abbraccialo con l'amore, accettalo con l'amore, perché Dio ti ama. Dio ti ama. Sapete, quando vi chiedo di fare una cosa, non è mai una cosa che prima non ho fatto anch'io. E io questa settimana ero qua e dicevo: Gianluca, sai che il Signore ti ama. Gianluca, sai che il Signore ti ama. A volte chiudevo gli occhi, sbattevo contro un muro, una porta, però intanto mi chiedevo: Gianluca, riesci a catturare, ad abbracciare il fatto che l'amore di Dio è grande per te? E vorrei essere qui e potervi dire: sì, ce l'ho fatta. Invece rimane ancora qualcosa che non ho completamente abbracciato questa settimana. È successo altre volte, questa settimana un pochino meno. Perché? Perché mentre camminavo dicevo: Signore, ma io sono così e io sono colà. Signore, io ho fatto questo e io ho fatto quello. Signore, io ho appena pensato a quella cosa. Signore, io lo so, accetto, e questo è facile, accettare il principio teologico che Dio è amore e mi ama. Questo lo capisco, lo comprendo, qui lo comprendo, ci arrivo. Non so se sono l'unico o il solo, però ci arrivo. Che Dio è amore, non può far altro se non amare. Lo capisco, Qui logicamente ci arrivo, il mio cervello ci arriva, però puoi prendere quell'amore e farlo mio. Un conto è capirlo, un conto è abbracciarlo. Per questo ho usato la parola: hai abbracciato l'amore di Dio oggi, questa settimana. È una cosa molto, molto, molto diversa. Se abbracciamo il suo amore, noi siamo trasformati da quell'amore. Ed è questo quello che noi siamo chiamati a fare. E mentre lo facevo, riflettevo su di me: ma sì, ma sono così, sono colà, siamo, ho fatto quello. E in un momento, qualcosa dal Salmo 117 mi ha colpito il cuore. Mi ha colpito il cuore attraverso una parolina che è amore. Alcune traduzioni lo traducono con misericordia, grazia, bontà. Questa parola che descrive l'amore di Dio per noi. Sapete dove altro si trova questa parolina? Ne abbiamo già parlato, se avete seguito i salmi, ne abbiamo già parlato di questa parolina, amore. Si trova quando Mosè ha incontrato Dio. E Mosè ha detto: Signore, voglio vedere la tua gloria. E il Signore l'ha fatta vedere, in modo velato gliel'ha fatta vedere. E quando il Signore si è rivelato, ha rivelato la sua identità, ha detto questo: Yahweh, Yahweh, io sono, io sono. Io sono un Dio lento all'ira e abbondante in amore. Ed era questa parolina qua, abbondante in amore. E nel mio camminare, nel mio passeggiare, nel mio dire: Signore, ma io sono così e io sono colà, il Salmo 17 è esploso nella mia mente, nel mio cuore, e mi ha fatto comprendere questa cosa. Gianluca, il fatto che Dio ti ama non è basato sulla tua identità, su chi tu sei, quello che fai o quello che non fai, quello che dovresti fare o non dovresti fare. L'amore di Dio per te non è principalmente basato su chi tu sei, ma principalmente è basato su chi sono io. Perché io sono un Dio lento all'ira e abbondante in amore. Grande è l'amore di Dio per noi. L'hai già abbracciato oggi? Non dipende da quello che tu sei o quello che hai fatto. Non mi interessa da dove vieni, se sei qui per la milionesima volta o la prima e mi senti parlare come un cavallo pazzo. Dio, sono qui a dirti, Dio ti ama. L'amore di Dio per te è grande, è grande, è grande. E so questo per certo, perché non si basa su chi tu sei, ma si basa su chi Lui è. E Lui è un Dio gloriosamente grande e pieno di amore. Questo è quello che il Salmo 117 dice. Non è bellissimo? Brevissimo, ma contiene quasi tutta la verità biblica. L'amore di Dio è grande, grande è il suo amore, grande è il suo amore. Sapete questa parolina grande? Altra parolina nel Salmo, non so se lo si può riproiettare, però dice: il suo amore è grande verso di noi. Grande non sta solo a sottolineare il numero o l'abbondanza, certo anche, soprattutto, l'amore di Dio è abbondante nei nostri confronti, ma non solo. Questa parolina, grande, vuol dire anche forte, potente. Sapete perché? Perché l'amore di Dio ci accoglie, ci raccoglie così come siamo, ma non ci lascia lì. L'amore di Dio è grande e potente da cambiarci e trasformarci. Questa sera abbraccia il suo amore, se ancora non l'hai fatto oggi, abbraccia il suo amore con tutto te stesso. Perché è un amore grande, infinito, è paziente, è paziente, è paziente ed è potente. Non ti lascia, è impossibile che tu rimanga lì dove ti ha accolto e dove ti ha trovato questo amore. È impossibile. Perché il suo amore non è solo grande, ma è forte. Ma verso di chi è questo amore? Per chi è questo amore? C'è scritto proprio per noi, plurale. Chi sono questo noi? Non posso fare avanti e dietro, avrei bisogno di un'altra mezz'oretta in più per spiegarvi tutti i collegamenti di questo salmo bellissimo, ve l'assicuro. Due versi potenti. Il noi sono tutti i popoli. Tutti i popoli. Per questo invita tutti i popoli, il Salmo nel verso 1, tutti i popoli a lodare Dio. Quando la Bibbia parla di tutti i popoli, non sta parlando di stati geografici. Perché quelli sono stati inventati in tempi moderni, no? L'Italia con i suoi confini, la Germania con i suoi confini. Quando la Bibbia è stata scritta e il cuore di Dio è stato rivelato, non parlava di stati geografici, ma parlava di popoli, di gente, di gruppi etnici, di gruppi che hanno la stessa lingua, che hanno la stessa cultura, che hanno le stesse abilità, capacità, desideri, questi gruppi di persone. Perché? Perché Dio è un Dio che ha a cuore le persone e non una cartina geografica. Il Signore ha a cuore cuori e non stati politici. Ogni qualvolta la parola di Dio parla di popoli o nazioni, sta descrivendo questi popoli. E la Bibbia quindi oggi, invece di parlare di India, per esempio, parlerebbe dei Dari, parlerebbe dei Punjabi, parlerebbe dei Sindhi. Chiedete agli indiani di Modugno o quelli che ci sono in giro, ma di dove, che popolo sei veramente? E ve lo diranno. Il Signore ha a cuore tutti i popoli. Anche per questo nella Bibbia si parla di Amorei, Ittei, i Viti e così via e così via. Sapete, oggi si stima che nel mondo ci siano più di 10.000 gruppi etnici, che ci siano più di 10.000 popoli. E sapete quanti di questi popoli sono raggiunti dal Vangelo? Che cosa significa raggiunti dal Vangelo? Che abbiano una chiesa stabile, che è facilmente conoscibile il nome di Cristo Gesù, è facilmente udibile il Vangelo e la speranza in Cristo Gesù. Sapete quanti di questi popoli non hanno questa testimonianza? Più di 6.000, a dire il vero sono quasi 7.000. Su 10.000 popoli, che fanno i 7 miliardi di persone che siamo su questo pianeta, più, quasi 7.000 non hanno la testimonianza di Cristo Gesù. Non hanno la possibilità di sentire che Lui è un Dio ed è un Dio di amore. Non hanno la possibilità di sentire che grande è l'amore di Dio nei loro confronti. Non hanno la possibilità di abbracciare questo Dio e sentire tutto il suo amore. 7.000 popoli, 7.000 popoli che gridano a noi perché non hanno speranza. L'abbiamo sentito anche dai ragazzi. Quando si va lì si comprende davvero l'oscurità e le tenebre che questi vivono. Siamo noi chiamati ad andare. Per questo facciamo questi viaggi, per questo investiamo economicamente, per questo preghiamo, per questo sosteniamo, per questo siamo una chiesa che manda e per questo siamo una chiesa che va. Non perché ci piace, non perché è di moda, non perché fa cool, ma perché il Signore, la sua parola, ci chiama a farlo. Noi facciamo quello che facciamo perché Lui ci chiama a invitare tutti i popoli a lodarlo. Amen. Lo riuscite a intravedere almeno nel Salmo 117. Il Signore ha un cuore e ama tutti i popoli. I popoli, fratelli e sorelle, stanno venendo da noi. È importantissimo andare da loro, perché se non andiamo da loro, loro non ascolteranno mai della testimonianza che è in Cristo Gesù. E qualsiasi sacrificio, ve lo garantisco, per esperienza, ne vale la pena. Però è anche vero che i popoli stanno venendo da noi. E adesso magari dirò qualcosa di un po' forte, ma secondo quello che la parola ci dice, e secondo quello che la parola di Dio ci dice, che noi siamo come suo popolo, verso i popoli che stanno venendo da noi, noi dobbiamo avere un'attitudine, un approccio completamente diverso dai nostri vicini, dai nostri amici, dai nostri politici e dai nostri compagni che non conoscono Cristo Gesù. Noi non possiamo permetterci di postare cose che loro postano. Non possiamo permetterci di commentare come loro commentano. Non possiamo permetterci di avere le attitudini che loro hanno. Perché? Perché noi eravamo stranieri. Perché noi non eravamo un popolo e Lui ci ha adottato ad essere popolo. Perché noi eravamo poveri, nudi e senza speranza e Lui ci ha dato una speranza. L'amore di Dio è grande, l'amore di Dio è grande per tutti i popoli. Lasciamo ai politici risolvere le questioni organizzative. Lasciamo agli amministratori risolvere i problemi. Non li risolveremo noi e in questa stanza. Il Signore a noi chiama a fare qualcosa di diverso. Cosa? A dimostrare che Lui è un Dio grande in amore. Grande, grande in amore. Per questo noi amiamo, per questo noi accogliamo, per questo noi abbracciamo, per questo noi li invitiamo, invitiamo questi popoli a lodare il Dio glorioso. E questo è quello che il Salmo 117 ci dice. Invitare tutti i popoli, invitare tutte le nazioni, nessuno escluso, a lodare il Dio magnifico. Concludo con questa bellissima parola. Il Salmo 117 inizia con, se possiamo riproiettarlo, lodate il Signore, popoli tutti. Ma è bellissimo, lodate il Signore. Non c'è scritto inginocchiatevi, riconoscete, mortificatevi, perché non vi siete umiliati davanti al Dio, quindi fatelo e riconoscetelo. Non c'è scritto lodate. E lodare è un atto spontaneo. È un atto del cuore che riconosce che questa persona, questo essere è amabile, che questa persona è ricco in amore, è abbondante in amore verso di noi. È un atto spontaneo e questo noi invitiamo tutti i popoli a fare, da qui fino all'estremità della terra. Fratelli e sorelle, noi come Chiesa abbiamo un grande mandato. Il Signore anni fa ha ispirato il nostro pastore, mio papà, al nostro motto che dice un popolo di veri adoratori impegnati a ubbidire al e al e al grande man grande e un grande mandato. Se fossimo stati chiamati a raggiungere solo il popolo pugliese, solo il popolo italiano, sarebbe un mandato. E sarebbe un mandato glorioso, importantissimo e bellissimo. Ce l'abbiamo questo mandato. Ogni qualvolta usciamo sul pianerottolo di casa nostra, noi abbiamo quel mandato di invitare questo popolo a lodare il Dio che è ricco, è ricco, è ricco in amore. Ma il nostro non è solo un mandato, è vero? Il nostro è un grande mandato. Perché è un grande mandato? Perché quando erano solo in 12 con Gesù, il Signore ha detto: tutti i popoli, tutta l'autorità mi è stata data, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, nessuno escluso. Vedete come il Salmo 117 è quasi un embrione del Vecchio Testamento di questi versi. È un embrione, il Salmo 117 di Giovanni 3,16, secondo me. È la versione del Vecchio Testamento di Giovanni 3,16 che dice: poiché Dio ha tanto amato tutti i popoli, tutto il mondo, tutte le nazioni, che ha dato suo figlio, perché è un Dio di amore, è un Dio ricco in amore. Questa è la nostra chiamata. Facciamo quello che facciamo. Andiamo fin dove andiamo, perché la sua parola ce lo rivela. E per questo io voglio chiederti di prendere, di rinnovare il tuo impegno questa sera. A far parte di questa Chiesa e a far parte di una Chiesa che come scopo, che ho come obiettivo, ha il grande mandato. E la mia preghiera è che da questa sera in poi nessuno, nessuno possa dire: e vabbè, il fatto delle nazioni, il fatto della missione è una cosa di Gianluca, è una cosa di Seotto, è una cosa dei ragazzi che sono partiti. No, che da questa sera in poi possa essere una cosa di noi tutti quanti. Perché? Perché la sua parola ci chiama a questo. Ci alziamo in piedi. Il Signore chiama alcuni di noi ad andare. E forse alcuni di questi ragazzi, mamme, tremate, papà, tremate. Perché il Dio glorioso e sovrano ha piani meravigliosi per i vostri figli, che forse sono fino all'estremità della terra. Il Signore chiama alcuni ad andare. Il Signore chiama altri a mandare, a sostenere, a incoraggiare. Uso sempre questa metafora: quando si scala una montagna c'è uno che scala e l'altro giù che gli tiene la corda. Queste sono le nostre opzioni. o sei lì su a scalare la montagna per portare la speranza ai popoli che ancora non hanno udito, o stai lì a tenere la corda del tuo fratello per permettergli di farlo. Questa sera rinnova il tuo impegno. Non fare da scaricabarile, non puoi permetterti di dire non è cosa mia, il Signore ti chiama a farlo. Prendi la tua decisione, rinnova la tua decisione a dare per la missione, per quelli che vanno, per Giulia, per Marta, come non hai mai dato prima. Prega, inizia a pregare come non hai mai fatto prima. Inizia a sostenere con messaggi, con cartoline, con letterine, con pensieri che possano sostenere questi nostri cari. Inizia ad andare come non sei mai andato prima. Perché? Perché? Lodate il Signore. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria. Dategli gloria. Perché grande è il suo amore per noi. E la fedeltà del Signore dura in eterno. Alleluia. Signore Gesù, io ti prego per le decisioni che stiamo prendendo in questo momento. E Padre, io ti prego per quei cuori questa sera che non riescono ad abbracciare il tuo amore. Io prego affinché possano varcare quelle porte soltanto quando hanno abbracciato completamente il tuo amore. O Padre, che almeno possano prendere l'impegno da domani di perseguire il tuo amore sempre di più. E Padre, io prego che il tuo amore possa trasformare ognuno di noi sempre di più, di gloria in gloria. E se sei questa sera qui e ti dici: Gianluca, l'ho fatto più volte, Gianluca, non ci riesco, Gianluca, non... Il Signore questa sera ti dice: continua a perseverare, perché a chi bussa sarà aperto, perché a chi cerca trova, perché chi si avvicina a me, io mi avvicinerò a lui. Questa sera il Signore ti sta dicendo: io ti abbraccerò, stendi le tue braccia, io abbraccerò e ti farò sentire il mio amore infinito. E Padre, io ti prego per tutti quanti noi, affinché da stasera in poi, Signore, le nazioni, quei 7.000 popoli che ancora non hanno udito della tua speranza e del tuo Vangelo, non possano rimanere un numero, non possano rimanere qualcosa che noi ignoriamo. Padre, per questo io prego per tutta questa stanza, per tutti questi miei fratelli e sorelle che possano prendere una decisione, Signore. Padre, di essere quel megafono che invita, che invita, che invita tutti i popoli a lodarti perché sei degno. Padre, rimetto tutti quanti noi nelle tue mani, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.